In mezzo al lac e su tal su, ghe un nom che il rema de parlu. Gascia una barca mea troppa grossa e ghe del sang sui vestì che l'indossa. La sua faccia le quella de vin che la riscia de vespio nissun. Ogni ferida la spunge mena spena, però oramai ghe la riva visena. I pescadù van dent a utal, in sulla riva i entuccia special. L'el marcu e il mercant che gira in sul lac e il trasporta de tut, dalla stoffa ai lumac. Adesso però, il trasporta d'umà la sua pelle. Per lui, l'insuccess vexà almeno quel. I pirati, proprio io men de slav. A se po' me a scappare che la vacca de nav. I man rubatut, i man cun sciapie bon. Ho vedu che i scappaven e i puntaven culon. I vureven savè de na cazzo de mappa. Alle proprio miracol che golamo la crapa. Tony Tropcool sculta bei quella storia e se la inciò in della memoria. Nessun l'ha vedù e neanche nutà, perché Tony, il balos, se vestì come un fra. Siccome oramai anche lui l'ha imparà che bisogna sta schish con tirop complicà. Tony è il nevà della fola che in fescia. El va giù a te la spada, sconduda a portescia. El va su a te il cavallo, posteggia al pian di nus, che è una bestia incantata, e se chiama Venrus. Il cavallo l'era sta trasformai in un sas, ma Tony e la spada han podu fal rinas. La leggenda la dis che il po trasformas e quan che il viaggia il fa mea fare cas. A ghide capì, cari me gent, che qui là ieren tempi curius, se parlava de maghi e de spirit, de strani demoni e del dio della cruz. Vel disi, per me a favis confond, se in mezzo a tutta questa storia, truarimis cia di rop, che poden sta insieme come lacci e cicoria. Visen al rifugio del Tony Tropcold, che era sola tribù che pregava il dio Naccia. Gent grande e gross, che stava in sua volt, e se i combatteven i pituraven la faccia. In mezzo a sta gent, la leggenda del Tony l'era girata per tutti i cantoni, e il Tony per lur l'era più sé che un nom, ma l'era presente anche in diurazione. E il suo cavallo l'era sempre curà e la sua spada sempre lustrata. La grossa armadura brillava men specie, con sé disegnata una saetta durata. Tony il sera mai tan curà di tutti i rop le religiosi. Ghera la sua concezione di rop giust, credeva nel cœur e nei gen valorosi. Credeva a tutto quel che l'era vedù, spiriti, fantasmi, maghi veri e impostur, capiva che suta aghera un inferno, e quindi, in del ciel, ghera anche al Signore. La fata di Ossino l'aghera spiegà tutta la storia assai complicata della sua nascita su Tanstralush in una noce de una gran tempestada. All'era special, e la sera anche lui, e il ghera una spada che l'era un spettacolo, però, avess sincer, pensava mea, deve sfiode chissà quale miracolo. E adesso l'era lì, e la fata del funt la ghera da un ordine de mea tradì. Bisognava mezzo la sela a Venrus, e senza per temp desciulas e partì. E il mercant scampà la morte, l'era di che quei bravi person, tu ciapà cerca una mappa, i rennaggio per culon. Le proprie lei che godenà per incontrare il sciur capitan. Suta metti l'armadura, però la quati colpa stran. Gomea de fa scata via, altrimenti la va a bot. Che bisogna ves balos, se de no, l'è un gran casotto.